Ladies and gentlemen, and now Alessandro Milan and Oscar Giannino. Licenziato! Voi due siete superficiali, sciocchi, il simbolo di una vita sprecata. Basta! Basta! Basta! Prendi due elementi innocui se separati come nitrato e glicerina. Combinali insieme e avrai un esplosivo potentissimo. 24 mattino. Attenti a noi due. Alle 8:21 minuti, eccoci caro Oscar. Eccoci. Ci siamo, eh? Allora. Eccoci qua. Oggi è San Bruno. Bruno. Ma la vera notizia, io sono molto felice, l'apertura del Financial Times, guarda, per una volta se giornalista, sì, a me questa goduria che mi fa vedere, se pensa, il debito mondiale è arrivato a 152 mila miliardi di dollari. Fammelo calcolare. 152 mila miliardi. Quanti zeri ci sono? Tanti, pensa un po'. Miliardi. Perché la maniera inglese è quella di abbreviare dicendo 152 trilioni, ma significa un trilione sono 1.000 miliardi, quindi sono 152 mila miliardi. E noi nel compenso siamo sempre a 2.000. Noi siamo a 2.250 di debito pubblico per lo Stato, questo è il debito complessivo, però anche i privati dentro. Perché di questi 152 mila miliardi, cari ascoltatori, quasi due terzi è privato, il resto sono gli staterelli che, che fanno la loro parte, cioè il debito complessivo, l'economia cresce. San Bruno, il debito. Non ho capito. Perché San Bruno era tedesco, ti spiego, è una parabola. San Bruno era tedesco, nato tedesco, ma dove è morto? Non lo so. In Calabria, Serra di San Bruno. Certo, Serra di San Bruno. E quindi è la parabola dei rigoristi che alla fine diventano espansivi, per così dire, spendono. Quindi oggi è San Bruno. Nato tedesco, ma è morto tedesco, italiano. Ma è morto latino indebitato. Questa è la parabola del giorno, è questa. E oltre a questo, cosa dire di questo giorno? Che bisogna fare gli auguri, che si chiama Alberta Artaldo. Conosci un Artaldo? Io no. No. Però anche Magno, io Magno, conoscevo un politico che ha detto in Calabria che si chiama Magno, Magno. E ogni volta gli si faceva notare che il nome non era il massimo della vita. Capito? Magno. E lui diceva no, perché io, il mio concorrente una volta, il mio comune era Magna. E allora la risposta fu Carlo Magna, perché questo è un'enorme cosa, e vinse Magno su Magna. Certo, questo. Giusto Oscar, ma debito verso chi? Giustamente ci chiedono, debito verso chi? E il debito di chi verso chi? Il debito di questi, se leggete Financial Times troverete che questo, quasi due terzi è dei privati, cioè privati significa imprese e famiglie, quasi un terzo. Quindi è dello Stato, banche nei confronti di e banche. Il totale del debito è tra banche e mercati, ovviamente con strumenti che sono sui mercati di debito. Però insomma viviamo su un bel mucchio di debiti. Va bene. Io devo ricordare oggi l'autore Alberto Anelli, tu dirai chi è Alberto Anelli, un musicista che fa gli anni oggi, autore di canzoni molto importanti tipo L'importante è finire, non so se la ricordi, l'importante è soprattutto il caffè della Peppina, che per me che quando ero bambino, ecco il caffè della Peppina, non si beve la mattina né con latte né col tè, ma perché? Però dopo che ho letto che tu ormai intervisti gli acchiappatori di fantasmi, i licantropi, addirittura leggete questa intervista in cui Mila scrive con tutta la serietà del caso del fatto che sul Lago Maggiore c'è un mostro, ci sarebbe Maggie. È un mostro di Loch Ness, non strano. Un tubo con gli occhi, cioè delle cose. Capite? Cosa qualcuno si fa dice, in questo mestiere? Dice di averle viste. Qualcuno dice di averle viste. Caro Oscar, va bene, poi altri auguri. No. Sì, volevo sapere solo se Caprotti ti ha lasciato. No. Caprotti per te all'apertura del testamento non mi risulta nulla per me, neanche una fida ti calda. Hai detto che metà di tutte le giacenze liquide, insomma conti correnti, disponibilità a titolo del portatore eccetera, alla FIDA segretaria che certo, la mitica germana, e per il resto invece alla seconda moglie e alla figlia appunto avuta dalla seconda moglie. Sì, ma anche i nipoti devono dividere tutte le giacenze con la segretaria viene prima, un mito Caprotti, un mito. Allora 800 24 00 24, il numero per intervenire in diretta. Caro Oscar, qui dobbiamo parlare di un tema che io introduco dandoti due cifre. Sai che negli ultimi tre giorni, in 72 operazioni di soccorso coordinate dalla Guardia Costiera italiana, sono state salvate più di 10.000 migranti. Terribile. Però ci sono anche 28 morti stivati in una, come dire, in una nave. Tre bambini invece sono nati dopo che i migranti, le donne in questo caso, sono state salvate, portate a bordo dalla Guardia Costiera, sono nati proprio sulla nave sulla nave della Marina Militare. Allora, forse qualcuno, tu hai visto Fuoco a Mare qualche giorno fa quando l'ha mandato su Rai 3? No. Io l'ho visto, insomma, a sprazzi, ma insomma c'è un protagonista di questo film, sicuramente documentario, che è il dottor Pietro Bartolo, è il medico di Lampedusa, che è con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno. Medico di Lampedusa, tra i protagonisti del film, e lei è di quelli che interviene proprio in prima persona. Da quanti anni lo fa? Lo faccio da tanti anni insieme a tutte le lampedusane e tutte le forze dell'ordine che ne vengono, e cioè dire da 25 anni. Anni. Sì. È vero, sì. Che arrivando l'inverno, ingrossando il mare, bisogna fare le ultime spedizioni, bisogna mandare le ultime persone, bisogna fare gli ultimi viaggi? Diciamo che loro approfittano del tempo buono, almeno questo c'hanno un po' di rispetto, insomma, quando c'è maltempo non li mettono in mare, però purtroppo anche con il tempo buono, come abbiamo visto, i naufragi ci sono lo stesso, perché adesso li mettono sui gommoni, non li mettono più sui barconi, quei famosi barconi chiamate carrette del mare, che erano delle barche comunque possenti, delle barche importanti, perché dovevano attraversare tutto il Mediterraneo. E a bordo c'erano anche gli scafisti. Adesso, approfittando del fatto che prima noi con il Mare Nostrum e poi adesso con tutte le navi della Comunità Europea, con Frontex nell'operazione Triton, ovviamente siamo di là, quasi sulle coste libiche, e loro approfittano di questo e li mettono su quei gommoni che sono fatiscenti, e là succede purtroppo quello che ancora siamo costretti a vedere, cioè tutti quei naufragi, anche quelle morte che abbiamo visto anche fino a ieri. L'altro ieri, e non sono 28, ma sono un po' di più. Sì, 28 su una nave, perché lei l'ha raccontato bene anche in Fuoco a Mare, cioè si paga, chi paga meno viene messo sotto, e chi paga di più, cioè c'è proprio prima classe, lo so che classe forse non è il termine giusto, seconda classe, terza classe, quelli sotto, che poi spesso purtroppo muoiono se non finiscono ustionati. Certo, c'è questa distinzione, perché c'è chi può pagare di più e c'è chi invece non può pagare. E a volte quelle che non possono pagare sono costretti, ecco, a lavorare o addirittura a donare qualche pezzo del suo corpo. E di questo se ne parla poco, purtroppo. Certo, chi paga di più, chi può pagare, ha diritto a stare in prima classe, come abbiamo visto, che sarà poi la prima classe sarebbe all'aperto. Certo. Cioè dire che ha la possibilità di respirare. Quelle della terza classe sono giù, che sono poi la maggior parte, e sono quelli che hanno difficoltà anche, non dico a respirare, ma anche addirittura ad aprire le gambe per partorire, perché non c'è lo spazio. Beh, insomma, impressionante questo racconto. Donatori di organi ci sono forzati, lei ne ha visti da medico? Beh, qualcuno, certamente ne abbiamo visti, di ragazzi con ferite chirurgiche, anche recenti, dovute alla esportazione di un rene, di solito si tratta, e questo, insomma, loro lo fanno per pagarsi il viaggio, perché magari non hanno più la possibilità, dopo sotto tortura telefonano ai parenti, alle famiglie per il riscatto, telefonate anche in Europa a fare gli amici che già lavorano, che hanno dei punti di riferimento, vabbè, e là sono, insomma, mandano dei soldi, questo quando è possibile, quando non è possibile, ecco che si ricorre a quella pratica che le ho detto prima. Senta, tutti questi anni non è mai venuto un giorno di amarezza, di cose tanto da farla pensare basta, vorrei fare il medico condotto in un posto normale invece che dover fronteggiare questa ondata, guardi, di tragedie? Sinceramente le devo dire di sì. Ci sono stati dei momenti di grande sconforto, di grande, come dire, si trovi di fronte a delle atrocità, soprattutto quando sei costretto a vedere dei corpi, di bambini soprattutto, e quella è una cosa atroce, ti senti impotente, ti senti male, e pensi ma io cosa riesco a fare qua, quando poi succedono ancora queste cose, e ti vengono gli dubbi, però grazie a Dio poi ci ripenso, grazie anche alla mia famiglia, ma soprattutto grazie a dei fatti positivi in mezzo a tutta questa sofferenza. qual è la nascita di un bambino, per esempio, no? Fino a 20 giorni fa ho assistito alla nascita di un bambino, da una donna del Mali, da sola, poverina, partorito su una motovedetta, poi sono salita a bordo subito, qualche minuto dopo il parto, come va? Ho legato il cordone umbilicale, ma ho fatto con l'ascio delle mie scarpe perché non avevo niente dietro, e poi ho revisionato quando l'ho portata al poliambulatorio qua da me, e mi sono fatte dare, nascere un bambino, e questo è un fatto positivo, un fatto bello, quindi in mezzo a tanta sofferenza, ma di questi episodi ce ne sono altri. C'è una foto, forse gli ascoltatori non lo sanno, ma se voi la cercate c'è una foto del dottor Bartolo che porta proprio a braccia una donna, credo etiope in quel caso. Questa donna etiope poi, che era in condizioni immagino molto molto gravi, si è salvata, è andata credo in Svezia, ed è vero che è tornata poi a Lampedusa per rincontrarla, per ringraziarla. Ecco, vedi, questo è un altro fatto positivo, un altro fatto bello. Bello, gli dà grande soddisfazione, perché ecco, aver salvato una persona per me è una cosa grandissima, e sono le cose che mi fanno andare avanti e mi danno una forza. Sì, si chiama Gebrat, è una ragazza che era stata data per porta il 6 ottobre del 2013, stava per essere messa nei sacchi per i cadaveri insieme agli altri, e per il momento, insomma, come faccio sempre, li controllo comunque in ogni caso, perché poi li devo fare l'ispezione cadaverica. Ho preso il polso, diciamo, fra le mie mani, come faccio con tutti, e mi sono reso conto invece che c'era ancora un battito, anche se flebile, tant'è che io pensai una mia impressione, in realtà dopo qualche secondo ne ho sentito un altro, e di lì la corsa con Domenico, che è il comandante della barca, Domenico che l'ha presa da morta, l'ha messa sul barcone, sulla sua peschereccio, mi ha aiutato a farla scendere sulla banchina, e qui la corsa verso l'ospedale, dove insieme con i miei medici e collaboratori l'abbiamo rianimata. È stata salvata questa ragazza, appunto, di 28 anni, adesso vive in Svezia. Sì, ed è stata per me un'emozione grandissima, ma veramente grandissima. Non le nascondo che ho pianto quando l'ho incontrata, è stata una sorpresa per me. Quando sono sceso dall'aereo, che venivo da Milano, ho trovato questa ragazza che io non conoscevo, che mi viene incontro, mi hanno detto che era Gebrat, bellissima tra l'altro, e per me è stata un'emozione incredibile. Perché c'è anche questo, che tante volte sono delle persone senza nome, senza volti, chissà quanti volti le sono passate anche davanti, non se li potrà certo ricordare tutti. Sai che molti ascoltatori ci dicono giustamente, ma che è bello secondo me, caro Oscar, per una volta parlare di questo tema, non abbiamo sentito una parola di politichese, di politica, di prendiamoli, lasciamoli lì, respingiamoli, però le sente anche lei tutti questi dibattiti, no, dottor Bartolo? Li sente anche lei? Certo, a volte sento dei dibattiti, dei discorsi che sono veramente discorsi, io dico, da idioti, perché sa, parlare di farle morire in mare, parlare di respingerle, parlare di queste persone che sono costrette ad andare via, mica vengono qua in vacanza, sono costrette dalle guerre, dalle torture, dalla violenza, ma anche dalla fame, dalla miseria. Non è che morire di miseria, di fame, è meglio che morire di altro. Per cui, ecco, erigere dei muri, oppure fare trovare una barriera, oppure respingerli, per noi io dico Lampedusa, per noi lampedusani, ma dico per l'Italia, perché Lampedusa è Italia. Certo. Quindi, come dico sempre, io sono orgoglioso di essere italiano, perché come lampedusano e quindi italiano non abbiamo mai respinto nessuno. Certamente bisognerebbe lavorare molto sul dopo. Questo sicuramente. La integrazione. Qui non lo so, questo è certo. Dottor Bartolo, qui c'è la questione, insomma, dell'Oscar, è inutile negare, insomma, lei forse è arrivata questa cosa più grossa di lei, la nomination, insomma, chissà, magari ci sarà anche l'Oscar, non lo so, posso dire che io, guardi, mi permetto di dire, prima che sentire il suo commento, per tanti di noi, Oscar o non Oscar, sì, quelli come lei, Oscar i premi tutti i giorni se li pigliano senza che la gente ve li attribuisca, perché così, ecco, cioè, si vede anche dagli ascoltatori, cioè, e infatti apposta ogni tanto ci vorrebbe più questa componente, non solo i politici che berciano, ecco, per fare capire bene che cosa vuol dire trovarsi ogni giorno di fronte a questa tragedia umana. Però insomma c'è questa cosa, se arriverà da Hollywood bene, se no no, non credo che la sua vita cambierà per tutto quello che ha fatto. Però... Ma si figuri. Io spero che si vada all'Oscar, ma per un mio obiettivo non è tanto l'Oscar, perché l'Oscar non è mio, è del maestro Rosi, che è una grande persona. Chiaro. Per me quello che conta è solo una cosa, portare un messaggio. Prima l'abbiamo portato in Europa con l'Osso d'Oro, l'abbiamo portato a Berlino. Sì. In Germania, adesso arriviamo dall'altra parte dell'oceano, anche là in America devono sapere quello che succede da queste parti, è chiaro. Per cui è il messaggio che per me interessa, tutto il resto. Io sono un medico, l'ho detto sempre, io voglio tornare a fare il medico e sto facendo questo, cercare di dare questo messaggio proprio per fare sì, magari chissà se tutti insieme, magari divulgando queste esperienze, queste testimonianze, magari si riesce a dare fine a fare. È chiaro che il messaggio vuol dire farlo no, renderlo noto in modo che le persone si sensibilizzino. Ecco. Noi la ringraziamo molto, Pietro Bartolo. Grazie davvero. Tra l'altro, io voglio dire, per chi vuole anche leggere, lui ha scritto un libro, Lacrime di sale, con la giornalista Lidia Tilotta, dove ha messo anche per iscritto tutte queste emozioni, questo lavoro quotidiano. Davvero, questo sì, da Oscar. A prescindere, caro. Ma non ci sono premi all'altezza. Esatto. Ci fermiamo un attimo per la pubblicità, poi entriamo. State con noi. State ascoltando un programma offerto da Stufe e Caminetti, la Nordica Extra Flame, il puro calore made in Italy che riscalda la vita. 24 mattino. Attenti a noi due. Eccoci qui, caro Oscar. Allora, che testimonianza, vedi? C'è qualcuno che ci ha scritto addirittura: sto piangendo mentre sto andando a lavorare ascoltando il dottor Bartolo. Però adesso senza, voglio dire, esagerare con le reazioni, però l'abbiamo voluto proprio per questo momento di riflessione, ispirato da chi, ripeto, non è che lo racconta, perché poi cosa diversa, ci sono comunque dei giornalisti, per esempio, perché chiamiamo Domenico Quirico? Domenico Quirico è una persona che ti fa sentire con mano che esistono parole di giornalista in grado di descrivere la disperazione e la morte. Poi c'è un livello ancora più elevato, gli operatori che non solo lo fanno in silenzio, non è detto che devi essere bravo a parlare, che con quella scabro linguaggio che usa, appunto, Bartolo, ti fanno capire tutte le volte che dove devono mettere le mani, gli occhi, la testa, far il nascere cuore, un bambino, no? E fare col cordone ombelicale e chiuderlo con i lacci delle scarpe. Perché non avevo nient'altro. No, questo è da 25 anni. Andrea ci chiama da Monza. Buongiorno, Andrea. Sì, buongiorno, Oscar. Buongiorno. Eccoci. Milan, volevo dire una cosa. Io provo molto spesso a chiamarvi la mattina quando affrontate temi dell'immigrazione, a queste persone che scappano da situazioni drammatiche, però tante volte non riesco a parlare semplicemente perché adesso è qui. Molto bene, anticipo l'intervento alla centralinista, il mio intervento è di natura diversa da quella che ho annunciato questa mattina e solitamente non vengo mai chiamato. Stamattina ho fatto un processo diverso. Siete in tantissimi che chiamate, quindi dobbiamo fare una selezione, ma venga al punto. Addirittura quest'oggi sono stato chiamato per primo. Oggi io ho detto alla signorina del centralino che volevo parlare per complimentarmi con il medico e per estendere i complimenti a tutte le forze dell'ordine che vanno a prendere queste persone fino alle coste della Libia. E quindi sono il primo a parlare, sono il primo che sono stato richiamato. In realtà io volevo dire esattamente il contrario. Se avessi detto l'esatto contrario alla centralinista, molto probabilmente sarei stato chiamato come al solito. Ma secondo te, la centralinista fa un filtro di selezione politica? Secondo me sì. Si sbaglia. Quando voi parlate nel vostro spot, scusate se vi interrompo, potete anche dire che mi sbaglio, per carità, saranno gli ascoltatori a farsi un'idea. Ma quando io sento che continuate a parlare di Canale di Sicilia, io penso che il Canale di Sicilia sia più o meno a 200 miglia nautiche rispetto a dove vengono salvate queste persone, quindi c'è un atto in corso da parte di tutta la parte della stampa, soprattutto Radio 24, che è molto, molto coinvolta da questo business. di spostare il canale di Sicilia per farci sentire emotivamente coinvolti, emotivamente responsabili di andare a salvare queste persone. Andrea, guardi, allora noi siamo io non lo so, lei chi la pagano invece? Gli squali che mangiano quelli che annegano? No, capisce che se io le facessi questo bianco, ma è ovvio che è una stupidaggine. No, non mi deve rispondere. No, ho capito, però il canale di Sicilia da qual è il ma lei scusi, perché farci sentire emotivamente coinvolti? Perché farsi sentire? No, beh, d'accordo. Di fronte a questo, ma noi siamo aperti a tutto, ma voglio dire, ma dire che c'è il ma proprio oggi uno, mamma mia, ma scusi, dopo, Milano, aver ascoltato il dottor Bartolo, mi devo sentire che ho il business dei migranti. Ma io adesso spacco la tastiera del computer. Il 20 giugno il ministro dell'interno ha fatto un accordo con Confindustria per mettere nelle condizioni le persone che sbarcano di avere dei corsi di formazione gratis. Eccolo, dica bene. Quindi noi siamo la radio di Confindustria e stiamo portando avanti il programma di Confindustria. Vada a fare in culo, guardi. Andrea, glielo dico così. No, glielo dico così, scusi, basta, glielo dico così, va bene. Il mio sono Alessandro Milan, di solito è Oscar che magari ogni tanto. Sono Alessandro Milan, mi è uscita così, caro Oscar. E questi sono stati, per così dire, c'è chi li ispira, convinti che in realtà la pensa davvero siamo così. Chiedo scusa, Andrea, non la dovevo mandare a fare in culo, ho sbagliato, perché è stato un gesto c'è chi cinicamente convince la gente che in realtà questo fenomeno è perché in Italia ci sono dei pianificatori in cupole che si spartiscono i soldi e che alimentano i migranti per dire venite qua che c'è una grande insegna luminosa sulle coste della Libia, non sul Mediterraneo, perché noi ci dicono anche di mentire per questo, che dicono venite qua perché Vincenzo Boccia, il presidente di Confindustria, se fa i soldi. E noi, invitando il dottor Bartolo, portiamo avanti un programma politico braccio armato mediatico di Confindustria, instillando il senso ma comunque c'è chi ascolto. Andrea, guardi, ripeto, ho sbagliato l'insulto, ma si sbaglia, poi ci vuol credere? Bene, non ci vuol credere. Però a noi tocca solo prendere atto del fatto che però il dibattito pubblico italiano, infatti per quello ogni tanto non ci mettiamo la politica, però è intossicato da questo, perché cinicamente c'è chi convince la gente che questo è un fenomeno autoindotto dovuto a gli squali, non sono quelli del Mediterraneo, quello della gente che annega, no, sono qui in Italia. E ovviamente sarebbe così bello ignorarlo, vero cari ascoltatori che la pensate così? Ma sì, spariamoli addosso, ma perché no? Buttiamoli a mare, ma sì. Vabbè. Pasquale ci chiama da Firenze, buongiorno Pasquale. Buongiorno, anzitutto prendo le distanze dal precedente intervento perché non mi è piaciuto proprio. Da un punto di vista personale però una indignazione la devo esprimere. Sì. Anzitutto, certo, un ringraziamento a nome di tutta l'Italia al dottore precedente, perché mi sono venuti i bordoni a sentirlo, e questo insomma a volte sono persone che esistono che parlano con la pacatezza di un santo, ma alla fine fanno tante cose utili. Per quanto che mi riguarda, penso che il mondo debba assolutamente preoccuparsi anche di una cosa, del perché queste persone arrivino attraverso il canale di Sicilia. E esprimo la mia indignazione nei confronti di tutti coloro che sanno bene che noi stiamo facendo uno sfratto esecutivo dell'Africa. Stiamo portando tutte queste persone qui e le dobbiamo salvare, perché non è possibile lasciarle annegare, questo è contro ogni principio. Però ad un tempo non si preoccupano del fatto che le multinazionali si stanno impadronendo dell'Africa, del fatto che ci sono terre rare, tantalio, multinazionali cinesi, americane che stanno sicuramente foraggiando tutto questo percorso. E questo mi dispiace dirlo, è una responsabilità del mondo intero. Sì. No, ma è chiaro, ma Pasquale, non è una responsabilità. Io dico salviamoli più che possiamo. Però un attimino spendiamo anche qualche parola per dire le vere motivazioni che portano. E dice, le cause che portano queste persone dal paese più ricco del mondo, perché l'Africa è il paese più ricco di minerali, dove si fanno due raccolti l'anno in agricoltura, eppure queste persone sono costrette a vendersi un rene, sentivo e mi venivano i brividi, a portare un rene per migrare. Ah, ma grazie Pasquale, perché dobbiamo anche introdurre un altro ospite, Oscar, su questo intervento che dice, cioè sul... Dico che anche questa è un'altra convinzione molto diffusa. La gente scappa da regimi corrotti, da violenza islamista, da guerre etniche nella fascia centroafricana, e voi dite che sono le multinazionali. vedetela come volete la storia del mondo, perché io vedo regimi corrotti, guerre etniche figlie del postcolonialismo europeo, islamismo, queste tre cose fondamentali. Se voi ci vedete le multinazionali, vabbè, come volete. Allora, vogliamo anche introdurre un altro ospite che è il rettore dell'Università di Padova, Rosario Rizzuto. Buongiorno, professor Rizzuto, e grazie di essere qui. Perché vogliamo cambiare tema, ci ha incuriosito, insomma, questa notizia. Spesso si dice la fuga di cervelli. Ci ha incuriosito, diciamo, anche in questo caso, positivamente. Positivamente. Altro che fuga, a volte i cervelli possono anche rientrare. No? Magari ci sono dei soldi da investire. A Padova lo avete fatto chiamando 21, possiamo definirli cervelli, caro rettore? Sì, sicuramente sono scienziati molto bravi. Chi sono e come avete fatto ad attirarli qui in Italia? Ma li abbiamo cercati intanto. Abbiamo identificato due categorie di scienziati che avremmo voluto riportare in Italia, vincitori di grandi progetti europei dell'European Research Council e professori che in questo momento sono all'estero. Li abbiamo cercati nei diversi campi del sapere, ci sono ingegneri, medici, chimici, fisici, antropologi, e gli abbiamo proposto di venire all'Università di Padova. La risposta è stata straordinaria. Ci sono anche italiani? Cioè alcuni di loro sono stranieri? Soprattutto italiani. Sono 4 stranieri e 18, perché sono in realtà 22 con il prossimo consiglio di amministrazione. 21 li abbiamo già chiamati e uno lo chiameremo fra una settimana. Quindi di questi 22, 18 sono italiani e 4 stranieri. Bene, ma con che soldi? Perché spesso si dice che non si investe, ed è vero, nella ricerca si investe molto poco, si dovrebbe investire il 3% se non sbaglio, Oscar, invece si investe forse l'1% l'anno, e quindi con che soldi li avete chiamati? Beh, i professori andranno anche pagati, visto che sono eccellenze. Guardi, questo è un tema importante, il finanziamento della ricerca è basso, il finanziamento dell'università è basso. Però questo non può essere un alibi. Se ti poni come obiettivo la competizione internazionale, con le risorse che hai devi provarci a farlo. E questo è quello che abbiamo fatto noi. Quindi abbiamo accantonato una quota del nostro bilancio per questa iniziativa. Noi avevamo due iniziative in mente. La prima era riequilibrare il flusso dei cervelli. Non mi piace il termine fuga dei cervelli, perché i cervelli si spostano. Il problema è che devono uscire ed entrare. Quindi dobbiamo dare il segnale che le nostre università hanno ricercatori brillanti che escono e vanno all'estero, è un percorso virtuoso, ma ne hanno anche che rientrano, e credo che questo sia molto importante. Beh, certo. E la seconda, dare una prospettiva ai giovani, quindi abbiamo fatto un investimento ancora più grande per le nostre casse per creare posti di ricercatori. Insomma, mi sembra, Oscar, dei messaggi positivi. Insomma, spesso nelle università si raccontano cose solo negative, ce ne sono, non vogliamo occultarle, ma no, anche volta... perché per esempio una decisione di prendere una parte del fondo attribuito secondo i criteri standard, che sono, senza entrare nel dettaglio, io li cambierei i criteri di attribuzione del fondo di sostegno universitario nazionale FUS, però cioè li differenzierei molto con premiando di più chi ha dei comportamenti con delle metriche che dimostrino che ha comportamenti più innovativi. Siamo in un sistema in cui l'omologazione pubblica un po' prevale, ci sono passi avanti su questa quota, però già il solo fatto, primo dei due elementi ricordati dal rettore, abbiamo deciso di accantonare, significa che la maggioranza, il corpo docente di quell'università ha fatto questa scelta di fronte a risorse che non erano infinite. Già questo secondo me è molto molto apprezzabile. Ricordiamo anche a chi ci ascolta che poi è anche una questione di ottimizzazione delle risorse, cioè se non entrano, se non rientrano, noi spendiamo, cioè, Alessandro, in media per formare un laureato in Italia sono in tutto il suo percorso formativo 250.000 euro che spendiamo, no? Poi per una formazione poi di tipo terziario avanzato, c'è cioè un dottorato, un PhD e così via, naturalmente la cifra sale ulteriormente. È un capitale che, se poi, come giustamente dice il rettore, il mondo è globalizzato, quindi le teste girano e vanno dove c'è gente capace di premiare di più, incentivare di più. Dovremmo essere capaci di essere attrattivi anche noi al contrario, perché altrimenti formiamo un capitale che poi si esplica e produce risultati altrove e non qua. È chiaro. Va bene, noi ringraziamo il rettore di Padova, Rosario Rizzuto. Caro Oscar, è stata una puntata un po'... È stata una bella puntata. Invece di parlare dei litigi sul quesito del referendum, o di parlare della Rai che deve fare tre porta a porta perché la Sette le sta dando le botte. Tre porta a porta sul referendum in prima serata perché la Sette è più brava di lei. Campo dall'Orto non ha un buon bilancio. Però noi in bolletta, come si vede, l'abbiamo pagato. Forse non tutti, però. Dobbiamo tornare su questo tema perché non si riesce a capire da questo punto di vista. Vabbè. Quindi riequilibrano, tentano di recuperare gli ascolti. La novità della Rai di Campo dall'Orto, però, è che fanno tre prime serate di porta a porta, ma non verrebbero a darlo a Vespa. Vedrai che lo danno. Ma come? Allora non si chiamerà porta a porta. No, appunto. Infatti, Vespa dice: scusate, io sono porta a porta, sono io. Questa è la nuova Rai, capisci? La nuova Rai. Va bene. Dai, allora ci troviamo domani, Ringraziamo tutti, a domani.